stavolta ho toccato il fondo. Non son più padrone del mio destino, un passo da vagabondo. Questa è l'andatura del mio cammino. Vado per la strada, aspetto che qualcosa accada. Volevo capire il mondo, ma è dalla sua ombra che mi nascondo. Forse non sono pronto, non fare domande o non ti rispondo. Naufrago di strada, aspetto che qualcosa accada. È una vita che prende in giro te e tuo modo fluido di vivere. Ma lo sai che c'è, forse è meglio se seriamente mi metto a riflettere. È difficile, hai ragione te, la tua forza mi aiuta a resistere. Quante volte io ho imprecato Dio, forse è ora che decida di smettere. Confronto, non temo giudizio, so quanto conto. Se scegli di starmi accanto, preparati ad ammortizzare lo schianto. Cerco la mia strada, aspetto che qualcosa accada. È una vita che prendi in giro te, è il tuo modo pulito di vivere. Ma lo sai che c'è, forse è meglio se seriamente mi metto a riflettere. È difficile, hai ragione te, la tua forza mi aiuta a resistere. Quante volte io ho imprecato Dio, forse ora che decida di smettere.